Il banchetto delle speculazioni. Come la finanza gioca sui prezzi del cibo. Uno speciale radiofonico a cura di Amisnet, con il sostegno e la partecipazione dell'organizzazione non governativa MAIS, nell'ambito del progetto Creating Coherence, promosso insieme alle organizzazioni Fair Watch di Genova, Xarxa de Consum Solidari di Barcellona, Both Hands di Amsterdam, Zazemiata di Sofia e Protect the Future di Budapest. Nel 2008, nel pieno della tempesta finanziaria che aveva portato al crack dei mutui subprime ed una crisi economica globale, il Parlamento degli Stati Uniti convocava una serie di commissioni per indagare sulle responsabilità della finanza. Commodities futures markets exist solely for the benefit of bona fide physical hedgers, not for speculators. Il 20 maggio a Washington la Commissione per la sicurezza interna e gli affari di governo del Senato ascolta la testimonianza di Michael W. Masters, manager dell'omonima Masters Capital Management e, come lui stesso si presenta, persona che ha passato gli ultimi 12 anni a gestire con successo fondi di speculazione. In contrast, index speculators invest in a broad basket of commodities and therefore do not express a view on any single commodity. Nella sua audizione, Master, che sostiene di parlare come persona informata dei fatti e come cittadino preoccupato di quanto sta accadendo, non si soffermerà sui mutui subprime, ma su un altro tipo di speculazione finanziaria che sempre di più sta attirando l'interesse dei grandi investitori, quella sui prezzi delle materie prime e in particolare dei generi alimentari. Every single WTI futures contract that is traded for any reason other than the supply and demand of physical crude oil is a contract that we Cacao, mais, zucchero, cotone, caffè, grano. Nei primi 50 giorni del 2008, spiega Master ai senatori statunitensi, sono stati investiti 55 miliardi di dollari in titoli che speculano sui prezzi delle derrate agricole. Un flusso da oltre un miliardo di dollari al giorno in grado di provocare impatti sulla stessa produzione agricola, ma che, come spiega Riccardo Moro, docente di politiche dello sviluppo all'Università di Milano, si basa su delle pure e semplici scommesse. Sono delle vere e proprie scommesse, cioè si dice oggi, domani o fra 3 mesi io guadagno o tu, e tu perdi, o io perdo e tu guadagni, a seconda di come andrà una determinata altra grandezza, cioè a dire io guadagnerò se il livello dei prezzi alimentari aumenterà. Il fatto è che quando i grandi operatori hanno cominciato a scommettere sul prezzo del cibo e a scommettere al rialzo, cioè a fare contratti che li avrebbero fatti guadagnare nel caso in cui il prezzo del cibo fosse rialzato, si è creata una dinamica per cui nel mercato tutti hanno cominciato ad aspettarsi aumenti di prezzo, perché se i grandi scommettono un aumento di prezzo vorrà dire che i prezzi aumenteranno perché hanno informazioni, perché sono in grado di creare delle dinamiche e di fatto si è determinato effettivamente un aumento di prezzi in ragione del fatto che la maggior parte degli operatori seguono le aspettative. Scommettere sui prezzi si rivela un affare proficuo. I piccoli investitori seguono delle grandi società finanziarie e i capitali si muovono in branco attratti dalla possibilità di profitti. Ma le conseguenze sulla vita reale delle persone sono pesanti. Nel 2008 i prezzi del cibo raggiungono livelli record, generando rivolte in diversi paesi del mondo. In Egitto, ad Haiti, così come in Indonesia, gli strati più poveri della popolazione non riescono più ad accedere a generi fondamentali. A novembre di quell'anno la FAO informa che il numero delle persone sottoalimentate ha superato il miliardo. Le conseguenze, spiega Michael Masters, si fanno sentire anche negli Stati Uniti. As you can see from the chart, Quest'anno, spiega ai senatori, i prezzi delle materie prime sono aumentati più che in qualsiasi altro periodo della nostra storia. Diversamente dalle crisi del passato, sottolinea però il manager, le materie prime non scarseggiano. Oggi i granai sono pieni e il petrolio viene estratto senza interruzione. Tra il 2008 e il 2010, sui mercati internazionali, i prezzi delle derrate agricole continuano a oscillare paurosamente, anche se, nella vita reale, i granai continuano a restare pieni. A confermarla è lo stesso incaricato delle Nazioni Unite per il diritto al cibo, Olivier De Schutter. Non c'è carenza di cibo. Quest'anno i raccolti sono stati abbastanza buoni, tra i migliori degli ultimi 5 anni. In un'intervista alla BBC, rilasciata nell'ottobre del 2010, Schutter spiega che gli aumenti improvvisi dei prezzi non seguono l'economia reale, ma sono dovuti a disfunzione del mercato. Why is wheat at this two-year high? I think it shows how dysfunctional the markets are. Possono esserci, come accaduto quest'anno, delle cattive notizie sul raccolto in Russia o in Canada, spiega Schutter. Ma il problema è che si specula su queste notizie, creando un autentico panico tra gli operatori del mercato. La situazione è preoccupante e Schutter approfitta dell'apparizione alla BBC per lanciare un appello. È molto importante che il messaggio arrivi chiaramente. Non c'è nessun motivo di panico e nessuna ragione per speculare, perché le derrate ci sono e non ci troviamo di fronte a una carenza di cibo. Un appello che però sembra cadere nel vuoto. Nel 2011 i prezzi delle derrate agricole sono arrivati ad un nuovo record, dopo aver subito un improvviso ribasso nell'anno precedente. La finanza del cibo, dal canto suo, continua a ingrandirsi, finendo per coinvolgere, come spiega Andrea Baranes della Fondazione Etica, anche comuni risparmiatori. Io oggi posso andare in una qualunque filiale bancaria e con poche decine di euro comprare dei prodotti che si chiamano ETF o ETC, che sono degli indici finanziari che seguono l'andamento dei prezzi di una materia prima, di un paniere di materie prime. Quindi appunto con poche decine euro e senza nessuna capacità e conoscenza finanziaria vado in banca e gli dico: io vorrei scommettere sul prezzo futuro del grano, della soia, del mais, del rame, di qualunque prodotto mi venga in mente. Questi prodotti sono stati creati negli ultimissimi anni. Poi è successa un'altra cosa, è successo che con la crisi finanziaria esplosa nel 2008, miliardi sono fuggiti dai mercati tradizionali di azioni e obbligazioni perché c'era la crisi e hanno cercato fonti di investimento alternative. Alla base c'è il fatto che per moltissimi nuovi investitori, anche per i piccoli investitori, fondi pensione, piccoli risparmiatori, da qualche anno il cibo e le materie prime sono diventate una classe di investimento come lo sono azioni e obbligazioni. Nel mondo della finanza è Chicago la capitale assoluta dei titoli legati agli stock alimentari. Qui ci si scambiano titoli legati a derrate alimentari dal 1848 ed è nel 1865 che nasce un'autentica stella della finanza, il future, strumento che permette di vendere e comprare derrate prima ancora che siano sul mercato. Attraverso i future ancora oggi si può acquistare una tonnellata di grano prima ancora che sia stato seminato o vendere arance prima di sapere come è andato il raccolto. Signore e signori, le stime del raccolto delle arance per il prossimo anno. Dopo aver esaminato le stime giunteci dai vari stati produttori di arance, abbiamo tratto la seguente conclusione. L'inverno rigido non sembra aver compromesso il raccolto delle arance. Fino a 10 anni fa, però, in borsa esistevano anche una serie di regole per evitare fenomeni degenerativi, come il nascere di bolle speculative senza controllo. Paletti che, come spiega Andrea Baranes, a partire dal 2000 sono stati gradualmente eliminati. Sì, assolutamente. La deregolamentazione e la liberalizzazione dei mercati ha avuto un impatto devastante e decisivo e moltissime di queste liberalizzazioni, come vengono chiamate, sono avvenute negli ultimissimi anni. Diminuzione dei controlli, possibilità di fare operazioni che prima non erano possibili. Ad esempio, dopo la crisi del 29 negli Stati Uniti avevano introdotto dei limiti su quanto una singola persona, una singola società potesse acquistare in derivati, potesse speculare sulle materie prime, proprio per evitare manipolazioni del mercato. Sull'onda neoliberista qualunque limite, qualunque controllo è stato soppresso perché il mercato è capace di regolarsi da solo, quindi nuovi prodotti finanziari che permettono di speculare sul cibo. In Gran Bretagna, la City di Londra, i derivati ormai sono chiamati The Tail That Wags the Dog, la traduzione letterale è la coda che scodinzola il cane, che è l'immagine per mostrare come oggi è la finanza assolutamente a comandare sull'economia reale. Fino a 10 anni fa era l'opposto. Tra il 2003 e il 2008 il volume delle speculazioni sul mais negli Stati Uniti aumenta di 8 volte, quelle sul grano di 10 e quelle sullo zucchero di oltre 23. Nello stesso periodo di tempo, solo per citare un esempio, in Nigeria il prezzo del grano passa da 100 a 300 dollari. La finanza non è l'unica causa dell'aumento dei prezzi, ma ha dei pesanti impatti a livello globale, finendo per incidere non solo sui consumi, ma anche sulla pianificazione agricola, come spiega Antonio Norati di Crocevia. Di sicuro c'è un impatto nefasto della speculazione finanziaria sul livello dei consumi, e questa è la cosa grave, perché la volatilità dei prezzi significa che l'alimentazione subisce una riduzione drastica. E quindi c'è un rapporto diretto tra la speculazione finanziaria e il livello dei consumi alimentari. Questo c'è ed è sicuro, ancora di più, peggio, fa male ai sistemi di produzione agricola. Cioè il fatto che il prezzo dei prodotti che ottieni è controllato da fuori, non dal produttore, non da chi si beve il latte, né da chi lo munge, ma da un ragazzino che sta dentro a una banca da qualche parte, che con un computer ne fa un derivato che si chiama breakfast e specula sul latte e sui cereali. Questo è quello che è grave, perché rende questo sistema agricolo dipendente da fattori completamente esterni. Cioè non ti basta più neanche guardare al cielo se piove. Questo significa che la produzione agricola verrà programmata solo in funzione di quanto si potrà specularci sopra. Se è ormai la coda a muovere il cane, il merito va soprattutto alle potenti lobby della finanza. Come racconta Heidi Cho, che in Gran Bretagna porta avanti la campagna per mettere fine alle speculazioni sul cibo per conto dell'associazione World Development Movement. È iniziato tutto alla fine degli anni 90, quando la lobby dei banchieri negli Stati Uniti sono riusciti a ottenere una graduale deregolamentazione dei mercati finanziari e a permettere gradualmente ogni tipo di speculazione, compresa quella sui prezzi del cibo. Tra le banche britanniche, la Barclays in particolare è stata tra le più attive, non solo perché specula, ma perché ha ideato nuovi strumenti finanziari per permettere ad altri soggetti, come i fondi pensione o i fondi istituzionali, di scommettere sull'aumento dei prezzi. Lo scorso aprile, gli attivisti del World Development Movement hanno circondato le sedi di diverse agenzie della società bancaria Barclays in giro per la Gran Bretagna, chiedendo di mettere fine alle speculazioni sul cibo. Come sottolinea Heidi Cho, l'istituto britannico ha un ruolo chiave nello sviluppo della finanza sul cibo. Insieme ad altri noti nomi come la Goldman Sachs e la Morgan Stanley, la Barclays è ritenuta uno dei pionieri nella sperimentazione di prodotti finanziari che hanno permesso anche a fondi pensioni e comuni risparmiatori di scommettere sui prezzi del cibo. Sì, è incredibile. Sul sito stesso della Barclays, la banca si autodefinisce come uno dei leader nel settore dei prodotti finanziari legati al cibo. Ne vanno fieri. Sono uno dei principali speculatori a livello globale sul cibo. Le nostre statistiche indicano che solo sul mais c'è stato, nell'ultimo anno, un aumento del 130% nel numero di contratti di questo tipo. Il mais è noto, è un prodotto utilizzato da una fetta consistente della popolazione mondiale come alimento di base. Nello stesso periodo di tempo in cui le speculazioni aumentavano, i prezzi del mais sono raddoppiati rispetto all'anno precedente. Questo ha creato enormi problemi per le popolazioni più povere, mentre ha garantito grandi profitti agli speculatori. Prendiamo la Barclays. In un anno, secondo le nostre stime, la banca, scommettendo sui prezzi del cibo, realizza profitti per 370 milioni di euro. realtà, aggiunge Heidi, potrebbe trattarsi anche molto di più di 370 milioni di euro. I profitti della Berkeley, così come quelli di tutte le principali società finanziarie, sono infatti difficili da stimare. C'è di più. A livello globale è praticamente impossibile capire la reale entità dei capitali che ruotano attorno alla finanza del cibo. Come mai è così difficile avere dei dati certi? È molto difficile, anche questo è un indice della assoluta mancanza di trasparenza di questi strumenti. A livello internazionale è principalmente la Banca per i Regolamenti Internazionali che pubblica delle ricerche, che stima che il mercato dei derivati possa essere intorno a 20 volte il PIL, cioè la ricchezza prodotta in un anno nel mondo, ma la stessa Banca per i Regolamenti Internazionali riconosce che è molto difficile saperlo, perché il 90% di questi strumenti non sono trattati sui mercati finanziari regolamentati sulle borse, ma tra due parti che si accordano fuori mercato. Sono i derivati chiamati OTC o over the counter, letteralmente vuol dire al di fuori del bancone, a segnalare che sono due che persone, una banca e una persona, si mettono d'accordo tra loro. Alcuni dati ci sono che riguardano ad esempio il petrolio, che possono essere indicativi. Nel mondo vengono commerciate ogni giorno 80 milioni di barili di petrolio, nel mercato fisico vengono scambiati fisicamente, i derivati sul petrolio sono 1 miliardo di barili. Questo vuol dire che il 90% dei soldi che girano sul petrolio sono pura speculazione. Il 90% delle transizioni avviene fuori dal banco e di fatto sfugge a qualsiasi registrazione e controllo. Come se non bastasse, la deregolamentazione ha permesso di spezzettare i prodotti finanziari, distribuendoli in pacchetti chiavi in mano da offrire ad una miriade di piccoli risparmiatori. Come è accaduto per i voli aerei, la finanza low cost ha permesso al grande pubblico di accedere ad un mercato che fino a 10 anni fa risultava precluso. La trasparenza però è talmente bassa che per un risparmiatore può risultare difficile, se non impossibile, sapere se i propri soldi sono stati usati per speculare sui prezzi del cibo. Riccardo Moro. È molto possibile che un comune cittadino possa trovarsi a essere partecipe di questa vicenda. Oggi noi abbiamo sul mercato dei prodotti finanziari che sono articolatissimi, sono fondi di investimento, cioè pacchetti di titoli diversi, sono fondi di fondi, cioè pacchetti di pacchetti, all'interno dei quali è realmente difficilissimo leggere che cosa c'è, anche perché spesso il che cosa c'è cambia di giorno in giorno, cioè noi affidiamo il nostro denaro a dei cosiddetti gestori, i quali fanno operazioni sulle borse ogni giorno per far rendere al massimo il capitale che noi gli diamo, ma in questo modo non abbiamo modo di sapere esattamente che cosa stanno comprando, che cosa stanno vendendo, e se ci fossero delle regole un po' più precise all'interno del mercato finanziario sapremmo chi fa che cosa. In questo momento, nel contesto attuale, noi letteralmente non sappiamo chi fa che cosa. Il risultato è che certamente il privato cittadino può trovarsi inconsapevolmente a essere partecipe di una dinamica che poi ha come esito finale la volatilità dei prezzi alimentari e la vulnerabilità di qualcuno. I prodotti finanziari legati alle materie prime sono molto comuni. Per capirlo basta dare una rapida occhiata al sito della Borsa Italiana, la società che gestisce la Borsa di Milano. Tra le pagine del sito ha un grande rilievo quella che esalta i vantaggi degli ETC, prodotto che, come viene scritto, ha reso accessibile a tutti gli investitori in maniera semplice, trasparente e con elevata liquidità il mercato delle materie prime. Con gli ETC, si legge, si ampliano le opportunità di investimento. Il risparmiatore potrà, infatti, prendere posizione su di una singola materia prima: oro, petrolio, gas, zucchero, soia, zinco. Tra i risparmiatori che, inconsapevolmente o meno, investono su questi prodotti ci sono anche le istituzioni. I comuni, ad esempio, che anche per fronteggiare la crisi si rivolgono sempre più spesso a fondi di investimento. Riccardo Moro è tra i sostenitori della campagna «Sulla fame non si specula». Promossa da diverse associazioni e ONG italiane, la campagna punta proprio a scoraggiare l'acquisto di pacchetti finanziari dannosi da parte di comuni e istituzioni. La campagna «Sulla fame non si specula» cerca di usare la leva dei comuni per proporre la riflessione più ampia sul ruolo tra finanza e prezzi del cibo. L'obiettivo della campagna è che i comuni che accettano l'appello lanciato si impegnino a non acquistare titoli derivati legati ai prezzi alimentari. Dopodiché, ripeto, è solo un segnale politico, perché il problema vero è che a livello politico si riescono a trovare degli strumenti di regolamentazione. Questo in qualche modo ci introduce nella più ampia questione del governo del mercato finanziario. Informare comuni e cittadini non basta. Quello di cui c'è bisogno è un'autentica riforma del sistema finanziario. Una considerazione che, come ricorda Andrea Baranes, era stata fatta a livello globale proprio all'indomani della crisi dei mutui subprime nel 2008. Purtroppo, allo scoppio della crisi nel 2007-2008, si parlava di rifondare la finanza dalle fondamenta, di una Bretton Woods 2. A distanza di 3 anni è stato fatto pochissimo. Il G20 è intervenuto molto bene per salvare le banche con giganteschi piani di liquidità. Finché si trattava di salvare le banche, ha fatto moltissimo. Dal momento in cui si è trattato di salvare le persone e il pianeta, non è più stata presa una decisione. Oggi la lobby della finanza ha rialzato la testa. Siamo in presenza di quello che gli economisti chiamano una cattura del regolatore, ovvero un caso in cui chi dovrebbe essere regolato in realtà detta le regole, detta i controlli e stabilisce quelle che sono le politiche da seguire. Lo vediamo a livello di G20, lo vediamo a livello di Unione Europea, dove tutte le proposte di direttiva e di regolamentazione subiscono un pesantissimo attacco delle lobby del mondo finanziario, in particolare dalla City di Londra, che è il vero e proprio cuore pulsante della finanza in Europa, se non nel mondo. Ma a Wall Street la situazione è simile, in giro per il mondo la situazione è simile. Nel luglio del 2010 gli Stati Uniti hanno adottato una normativa per arginare le speculazioni sui prezzi dei generi alimentari e attualmente l'Unione Europea sta lavorando ad una direttiva che dovrebbe seguirne l'esempio. Nonostante siano stati spesi centinaia di miliardi di soldi pubblici per salvare le banche, a livello globale non si è ancora riusciti però ad imporre una riforma complessiva della finanza. Un punto di partenza potrebbe essere la proposta avanzata dalla società civile di una tassa su ogni singola transazione finanziaria. Assolutamente, potrebbe avere degli effetti molto positivi, perché la tassa sulle transazioni finanziarie è un'imposta molto molto piccola, lo 0,05% su ogni compravendita di strumenti. Quindi chi acquista con ottica di lungo periodo, investitori, risparmiatori, ma anche una persona che volesse comprarsi un derivato con l'idea di tenerselo per coprirsi da un rischio, come abbiamo visto all'inizio, pagherebbe pochissimo. In questo caso dovrei pagare questa tassa molto piccola per ogni compravendita, il che renderebbe sconveniente realizzare la speculazione. Quindi crediamo che la tassa sulle transazioni finanziarie potrebbe essere molto utile anche per la speculazione sul cibo. Ancora prima sarebbe un segnale politico molto forte che finalmente c'è la volontà di regolamentare la finanza e non di limitarsi a tante belle chiacchiere nel corso di ogni G20 per poi lasciare le cose come stanno. Pensatela in questo modo, concludeva nel 2008 Michael Masters davanti ai senatori. Cosa accadrebbe se Wall Street inventasse un sistema per speculare sui farmaci? Si produrrebbe un aumento di prezzi che li renderebbe inaccessibili per le persone malate. La società non sarebbe scandalizzata? We'll be right back. Il banchetto delle speculazioni è uno speciale radiofonico realizzato con il sostegno e la partecipazione dell'organizzazione non governativa MAIS nell'ambito del progetto Creating Coherence, promosso insieme alle organizzazioni Fair Watch di Genova, Xarxa dei Consum Solidari di Barcellona, Both Hands di Amsterdam, Zazemiata di Sofia e Protect the Future di Budapest.